Il terzo anello, ad alta voce. Massimo Popolizio legge Il maestro e Margherita di Mikhail Bulgakov. Traduzione di Vera Drizzo. Pilato alzò il volto e lo rivolse al sole. Sotto le palpebre gli si accese un fuoco verde. Il fuoco gli fece ardere il cervello e sulla folla volarono gutturali parole aramaiche. Quattro criminali arrestati a Gerusalemme per assassinio, incitamento alla rivolta e offeso alle leggi e alla fede, sono stati condannati a una morte ignominiosa appesi ai pali. L'esecuzione avrà luogo subito sul Calvario. I nomi dei criminali sono Disma, Esta, Barraban e Anosri. Eccoli davanti a voi. Pilato fece con la mano un segno verso destra, senza vedere alcun criminale, ma sapendo che essi si trovavano là dove dovevano trovarsi. La folla rispose con un lungo boato, come di sorpresa o di sollievo. Quando questo si spense, Pilato continuò. Ma solo tre di loro saranno giustiziati, poiché secondo la legge e la consuetudine, in onore della festa di Pasqua, a uno dei condannati, scelto dal piccolo Sinedrio e confermato dalle autorità romane, il generoso Cesare imperatore restituisce la spregevole vita. Pilato urlava queste parole e nello stesso tempo ascoltava il rombo della folla mutarsi in un assoluto silenzio. Alle sue orecchie adesso non giungeva un sospiro, un fruscio, e arrivò persino un momento in cui gli sembrò che tutto fosse scomparso intorno a lui. L'odiata città era morta, ed era rimasto lui solo, arso dai raggi perpendicolari, con il viso affisso nel cielo. Pilato mantenne ancora il silenzio, poi ricominciò a scandire. «Il nome di colui che sarà liberato adesso è...» Fece ancora una pausa prima di pronunciare il nome, controllando se avesse detto tutto, perché sapeva che la città morta sarebbe risorta dopo l'annuncio del nome del fortunato, e nessuna ulteriore parola sarebbe stata udita. «È tutto?» sussurrò Pilato tra sé. «È tutto. Il nome». E rotolando la R sulla città in silenzio gridò «Barraban». A questo punto gli sembrò che il sole, squillando, fosse scoppiato sopra di lui e gli avesse riempito le orecchie di fuoco. Nel fuoco infuriavano urli, strilli, gemiti, risate e fischi. Pilato si girò e attraversò il palco diretto verso i gradini, senza guardare nulla, tranne i quadratini multicolori della stuoia sotto i piedi, per non inciampare. Sapeva che alle sue spalle piovevano sul palco monete di bronzo e datteri, che nella folla ululante, schiacciandosi, la gente si arrampicava sulle spalle per vedere con i propri occhi il miracolo, un uomo che, già tra le grinfie della morte, ne era scampato. Sapeva che i legionari gli stavano togliendo le corde, causandogli involontariamente un dolore bruciante alle braccia slogate durante gli interrogatori. Sapeva che l'uomo, pur tra smorfie e gemiti, sorrideva di un sorriso insensato e folle. Sapeva anche che in quel momento la scorta stava conducendo verso i gradini laterali tre uomini dalle mani legate per portarli sulla strada diretta a occidente, fuori della città, al Calvario. E solo quando fu oltre il palco, dietro ad esso, Pilato aprì gli occhi, sapendo d'essere in salvo. I condannati ormai erano nascosti ai suoi occhi. Al gemito della folla, che cominciava a spegnersi, si aggiunsero, e si poteva distinguerli, le grida penetranti dei banditori, che ripetevano, gli uni in aramaico, gli altri in greco, tutto ciò che il procuratore aveva urlato sul palco. Giunse inoltre al suo udito lo scalpitare ritmico e frusciante di un gruppo di cavalieri che si avvicinava, poi una tromba che annunciò qualcosa con un suono breve e gaio. A questi suoni seguirono i fischi squillanti dei ragazzini sui tetti delle case lungo la via che portava dal mercato alla piazza dell'ippodromo e grida di «Attenzione!». Un soldato che stava solo sulla parte libera della piazza agitò allarmato l'emblema che aveva in mano, e allora il procuratore, il legato della legione, Il segretario e la scorta si fermarono. Con un trotto sempre più marcato, una coorte alaria di cavalleria irruppe nella piazza. Attraversò di sghembo, evitando la calca, passò lungo il vicolo sotto il muro di pietra coperto di vite e prese la strada più breve per il Calvario. Piccolo, come un bambino, bruno come un mulatto, il comandante dell'alaria, un siriano che era lanciato a un forte trotto, quando giunse all'altezza di Pilato, gridò qualcosa con voce sottile e sfoderò la spada. Il suo ombroso morello coperto di sudore scartò e si impennò. Ringuainata alla spada, il comandante frustò il cavallo sul collo, lo dominò e si diresse verso il vicolo, passando al galoppo. A tre lo seguirono i cavalieri in una nuvola di polvere, saltellarono le punte delle leggere lance di bambù. Davanti al procuratore sfilarono in un lampo volti che sembravano particolarmente abbronzati sotto i bianchi turbanti, coi denti che luccicavano allegramente digrignanti. Sollevando polvere fino al cielo, l'alaria irruppe nel vicolo e davanti a Pilato passò per ultimo un soldato che, dietro la schiena, portava appesa una tromba che riluceva nel sole. Proteggendosi con un braccio dalla polvere e facendo una smorfia di scontento, Pilato proseguì verso il portone del giardino e dietro a lui si mossero il legato, il segretario e la scorta. Erano circa le 10 del mattino. «Erano circa le 10 del mattino, riverito Ivan Nikolaevich», disse il professore. Il poeta si passò una mano sul volto come un uomo che si sia appena svegliato e vide che era sera. L'acqua dello stagno s'era fatta nera, vi scivolava una barca leggera, si sentivano lo sciabordio del remo e le risatine di una donna sulla barca. Sulle panchine dei viali adesso c'era gente, ma solo su tre lati del quadrato, non su quello dove si trovavano i nostri. Il cielo sopra Mosca sembrava sbiadito e con assoluta nitidezza in alto si vedeva la luna piena, che però non era ancora dorata, ma bianca. Respirare era diventato molto più facile e le voci sottili adesso risuonavano più dolci, come suole di sera. Come ho fatto a non accorgermi che è riuscito a fabbricare un intero racconto, pensò Biesdomnir meravigliato. È già sera, ma forse non è stato lui a raccontarlo, sono io che mi sono addormentato e mi sono sognato tutto. Ma si deve supporre che fosse proprio stato il professore a raccontare, se no bisognerebbe ammettere che anche Berlioz aveva avuto lo stesso sogno. Questi, disse infatti, guardando con attenzione il volto del professore, il suo racconto è estremamente interessante, professore, anche se non corrisponde affatto a quanto raccontano i Vangeli. Per carità, ridacchiò con condiscendenza il professore, lei più di tutti deve pur sapere che niente di quanto è scritto nei Vangeli è mai successo. Se cominciamo a considerare il Vangelo come una fonte storica, ridacchiò ancora una volta, e Berlioz restò di sasso perché aveva detto le stesse identiche cose a Biesdomnir mentre camminavano lungo la Bronnaia. «Sono d'accordo», rispose Berlioz, «ma temo che nessuno potrà confermare che quello che lei ci ha raccontato sia avvenuto per davvero». «Oh, no! C'è chi lo può confermare», rispose con straordinaria sicurezza il professore, cominciando a storpiare le parole, e con una inaspettata aria di mistero fece segno ai due di avvicinarsi. E questi si chinarono verso di lui da entrambi i lati, ed egli disse, questa volta con un'ottima pronuncia che, chissà perché, ora gli veniva e ora gli spariva. Il fatto è, e qui il professore si guardò intorno con fare impaurito e proseguì con un sussurro, che ho assistito personalmente a tutto questo. Ero sul balcone con Ponzio Pilato nel giardino quando parlava con Caifa e sul palco, ma in segreto, in incognito per così dire. Vi prego quindi di non farne parola con nessuno e di serbare il segreto più assoluto. Subentrò il silenzio. E Berlioz impallidì. «Lei è a Mosca da molto tempo?» chiese con voce tremante. «Sono appena arrivato», rispose smarrito il professore. E solo allora agli amici venne in mente di guardarlo ben bene negli occhi e si convinsero che quello verde, sinistro, era completamente dissennato e il destro era vuoto, nero e spento. «Adesso si spiega tutto», pensò Berlioz, sconcertato. «È arrivato un tedesco pazzo, oppure è ammattito adesso. Che storia!» Sì, questo spiegava veramente tutto, sia la stranissima colazione col defunto professor Kant, sia i discorsi cretini sull'olio di girasole e Annushka, sia la predizione della testa tagliata, sia tutto il resto. Il professore era pazzo. Thank you. Berlioz capì subito quello che conveniva fare. Addossandosi allo schienale della panchina, ammiccò a Biesdomini, dietro le spalle del professore, come a dire «non contraddirlo». Ma il poeta, smarrito, non capì quei segnali. «Sì, diceva eccitato Berlioz. «Del resto tutto questo è possibile, anzi possibilissimo. Ponzio Pilato, il balcone, eccetera, eccetera. Lei è venuto qui da solo o con la sua signora?» «Solo». «Sono sempre solo», rispose amaro il professore. «Dov'è la sua roba, professore?» indagava con aria insinuante Berlioz. «Al Metropole? Dov'è che alloggia?» «Io? Oh, da nessuna parte», rispose il tedesco pazzo, mentre il suo occhio verde sorvolava malinconico e stralunato l'acqua dello stagno. «Come? Ma allora, dove abiterà?» «Nel suo appartamento», rispose con disinvoltura il pazzo, e ammiccò. «Io ne sarò lietissimo», borbottò Berlioz, «ma veramente a casa mia non starà comodo. Al Metropole invece ci sono camere splendide, è un albergo di prim'ordine». «E neppure il diavolo esiste?» chiese allegramente l'alienato a Ivan Nikolaevich. «Neppure!» «Non contraddirlo», disse Berlioz, col solo movimento delle labbra, nascondendosi d'impeto dietro le spalle del professore e facendo smorfie. «Non c'è il diavolo!» esclamò Ivan Nikolaevich, confuso da tutto quel garbuglio. «Proprio a me doveva capitare. La smetta di dare i numeri!» Qui il folle scoppiò in una risata tale che dal tiglio sopra le loro teste si alzò in volo un passero. «Ma questa sì che è bella!» proferì il professore tutto scosso dalla risata. «Ma come mai? Di qualunque cosa si parli, non c'è mai niente!» Beh, cessò di ridere all'improvviso, e cosa comprensibilissima in un malato di mente, dopo il riso cadde nell'estremo opposto, si irritò e gridò con severità. «Dunque, non c'è per davvero?» Si calmi, professore», borbottava Berlioz, temendo di agitare il malato. «Stia seduto qui un momento col compagno Biesdomini. Corro qui all'angolo, faccio una telefonatina e poi l'accompagniamo dove vuole. Lei non conosce la città?» Si deve ammettere che il piano di Berlioz era giusto. Occorreva fare una corsa fino al più vicino telefono pubblico e comunicare all'ufficio stranieri che un consulente arrivato dall'estero si trovava agli Stagni Patriarci, in uno stato tutt'altro che normale. Bisognava perciò prendere delle misure, se no sarebbe successo un pasticcio. «Vuole telefonare?» «Ma sì, telefoni pure», acconsentì malinconicamente l'alienato, ma a un tratto disse implorante: «Ma lasciandoci, la supplico, creda almeno che il diavolo esiste. Non le chiedo nulla di più. Tenga presente che c'è una settima prova che lo dimostra ed è la più sicura. E adesso le sarà sottoposta». «Bene, bene», disse con finta affabilità Berlioz, e ammiccando al poeta sconcertato, al quale non sorrideva affatto l'idea di sorvegliare quel pazzo di tedesco, si precipitò verso l'uscita dei Patriarci, che si trova all'angolo della Bronnaia e del vicolo Yermolaevski. Subito il professore sembrò ristabilirsi e rasserenarsi. «Mikhail Alexandrovich!» gridò alle spalle di Berlioz. Questi trasalì, si voltò, ma si tranquillizzò, pensando che il professore conosceva il suo nome patronimico per averli letti in su qualche giornale. Il professore gridò, mettendo le mani a megafono davanti alla bocca. «Non vuole che mandi subito un telegramma a suo zio di Kiev?» Berlioz sussultò di nuovo. Ma come faceva quel pazzo a conoscere l'esistenza dello zio di Kiev? Questo nessun giornale l'aveva certamente mai pubblicato. E non aveva allora ragione Biesdomny? E se quei documenti fossero stati falsi? Ah, un tipo davvero strano. Telefonare subito avrebbe fatto presto a scoprire chi era. E non ascoltando oltre, Berlioz riprese a correre. Qui, proprio all'uscita sulla Bronnaia, si alzò da una panchina per venire incontro al direttore quello stesso personaggio che prima, alla luce del sole, si era plasmato dall'aria afosa. Adesso, però, non era più fatto d'aria, ma di carne e ossa, e nel crepuscolo incipiente, Berlioz vide con chiarezza che aveva un paio di baffetti a forma di penne di gallina, occhi piccoli, ironici, mezzi brilli e pantaloni a quadretti tirati su al punto che si vedevano i calzini bianchi sporchi. Mikhail Alexandrovich indietreggiò stupito, ma si confortò pensando che si trattava di una sciocca coincidenza e che, comunque, non aveva tempo di rifletterci. «Cerca l'uscita, signore?» si informò con fessa voce tenorile il tizio a quadretti. «Di qua, prego. Vada diritto e arriverà a destinazione. Ah, per il consiglio mi dovrebbe pagare un quattrino, così l'ex maestro di cappella si tira su». Facendo mille smorfie, quell'individuo si tolse il berretto da fantino con un ampio gesto. Berlioz non stette ad ascoltare quel vagabondo e buffone che si diceva maestro di cappella, si avvicinò di corsa verso il tornello di uscita e gli appoggiò la mano. Dopo averlo girato, si accingeva già a mettere i piedi sulle rotaie, quando gli esplose in viso una luce rossa e bianca. Nella cassetta di vetro si era accesa la scritta «Attenti al tram!» e subito spuntò il tram annunciato, voltando sulla nuova linea che portava dalla Jermolajemskij alla Bronnaia. Dopo che ebbe voltato e imboccato il rettilineo, all'improvviso si illuminò all'interno di luce elettrica, ronzò e accelerò. Il prudente Berlioz, benché fosse al sicuro, decise di tornare dietro il cancello, spostò la mano sul tornello e arretrò di un passo. Beh, in quell'istante la sua mano scivolò e perse l'appoggio. Il piede, come se si fosse trovato sul ghiaccio, sdrucciolò inarrestabile sul selciato che scendeva declive verso le rotaie. L'altro piede volò in aria e Berlioz fu sbalzato sulle rotaie. Tentando di aggrapparsi a qualcosa, Berlioz cadde riverso, urtando leggermente la nuca sul selciato, e fece in tempo a vedere in alto, se a destra o a sinistra, questo ormai non lo capì, la luna dorata. Riuscì a girarsi sul fianco, stringendo con un movimento impetuoso le gambe sulla pancia, e, voltatosi, vide slanciarglisi addosso con una forza irrefrenabile il volto completamente bianco di terrore della conducente e il suo fazzoletto scarlatto. Berlioz non gettò un grido, ma intorno a lui tutta la via strillò in un coro di disperate voci femminili. La conducente diede uno strappo al freno elettrico. La vettura si impuntò, poi sobbalzò all'istante e con uno schianto e un tintinnio i vetri volarono via dai finestrini. Allora, nel cervello di Berlioz, qualcuno gridò disperatamente: «Possibile?» Ancora una volta, l'ultima, balenò la luna, ma ormai sfacendosi in pezzi, e poi fu buio. Il tram coperse Berlioz. E sotto il cancelletto del viale Patriarci, sul pendio lastricato, fu gettato un oggetto tondo e scuro che rotolò giù dalla china, saltellando sul selciato. Era la testa mozzata di Berlioz.